Mari. Sì, dottor, buonasera. Buonasera anche a lì. Mi stavo parlando adesso con Bacchigio al telefono. Al telefono? Se era riuscito a trovare a Giovanni. Se riusciva a trovare? A Giovanni la Briccia. Ah, ho capito. Provatola, sì. Sì, già l'ha trovato, sì. Già l'ha trovato. Gli ho dato il numero che ce l'avevo io, che era quello. E già l'ha trovato. Oh, era per dirgli per la festa. Era. Lui non manca mai, Dovrebbe essere sempre presente lui. È già presente, sì. Sono io che non ci sono. Purtroppo, chissà, non mi è capitato. Lo 14 mi è capitato, è nato il 14, ma molte volte il 14 non capita mai di domenica. Ah, un altro trovato la vedi. Sì, Antonello Pompugno. Lui è disponibile a fare queste cose, per cui meglio così va. Che l'apparecchietto ce l'ha? Ha detto che ne ha due, ne ha di quegli apparecchietti. A Bacchigio gli do la tabella delle frequenze, così faccio andare in quella frequenza lì che è un bel niente, quando nelle frequenze più o sopra o più sotto. Così che c'è da posto, va. Meglio così allora. Vuol dire quest'anno pazienza tutto, sarà la prossima. Infatti alla prossima, capiterà in sabato o in cosa, non lo so, sarà di diversamente. Se quest'anno è capitato in domenica, il prossimo anno capiterà in martedì. Così che sarà un'altra giornata più libera, no? Infatti, andate laggiù, una raggio domenica, Rosetti, la giuretta di Menibudi, all'altra vi raggiù il 14, sono tutti e due impegnati. Non manca mai, noi ogni tanto ce l'abbiamo una, si può immaginare che... succede anche queste giornate così, per cui bisogna riempire tutto. Fai bene, dai, fai bene che fai e fai il tuo dovere. Infatti sarà per la prossima volta, sarà, quindi ma che stanno andando così, anda. Giulia, certo, andiamo e andiamo. Tra cose e tutto, ogni buddy, dove? Ma non si da solo, amico. Sai quante riporti ho io con l'aereo. Così che sabato è quello di mia moglie, ti puoi immaginare. Anche noi ogni tanto abbiamo una, Così che sempre impegnati, sempre. Cosa vuoi fare? Sempre di compleanni, che d'altro, sempre in fissa. Andiamo via, andiamo. Era il dottore che mi dice andà piano a me. Dobbiamo sì. La uscita fuori a ricevimento. Questo è il ricevimento di mio nipote a Predaniela. In un posto dove ci sono tre sale, tutte e tre sale vanno gli yoghi, gli si gonfiano, gli si montagne di gonfiabili, con quelli lì, hai compreso? E più ci sarà la sala dove si fa, dove si mangia. Mi sembra che da Daniele lì è attaccato c'è questo circolo. No, dietro c'è Eurospin, Eurospin c'è, e Mauris, dietro giù dall'altra parte. Sì, dove stavo confondendo io, sì, ha ragione, dove c'erano le fosse, erano qua di quel caparrone dove c'erano le fosse prima, ti ricordi? Sì, adesso mi ricordo, Infatti lì ci sono i palloni gonfiati, almeno i bambini giocano lì, capito? E già si divertono poco già. E io ero grido. Lo divertimento è per i bizzini, ma per la mamma. Era un nonno, c'era il nonno. Andiamo via, andiamo. Ok. Beh, la cosa la mettete voi, no? Sì, tutto i genitori mettono. Quindi voleva un aiuto da me a portare tutto quanto. E l'altra volta abbiamo fatto con i miei gatti in quel locale lì, capito? Si sa bene, solo che c'è l'orario puntuale lì. Dalle 6 alle 8 mi pare, o alle 8 alle 9 mi pare che sia. Va benissimo. Ok. Noi pure ogni tanto ci andavamo da uno o dall'altro, ci andavamo lì, capisci? Per cui è un bello calino, dai, già si sta bene, per cui tranquillo, bene bene. Sì, infatti, all'altro invece l'altro rubati a Ribunti, lo stesso un locale dove ci sono questi giochi qua, domenica. Uno domenica e l'altro arguatore dall'altra domenica. Quindi già sono tutti e due i divertimenti. Ah, non ho capito. No, quello di Ponte non lo conosco, il locale. Quello io già non lo conosco. E dopo abbiamo fatto un paio dove, aspetta, un paio di volte l'abbiamo fatto dove sei dicendo tu. E l'altro l'abbiamo fatto dietro i pompieri, sì, dove c'è la chiesa lì. I parroci vanno, c'è questa sala e ci danno questa sala, anche lì abbiamo fatto anche un paio di volte anche. Mi sembra che quello si è trasferito, si è. Mi pare che sia in oggi. Oh. E qua a Predagneda mi sembra che sia, in un altro posto, vicino allo stesso. Oh, e si è trasferita, non lo sapevo. Mi sembra, non ne sono sicuro, perché io avevo sentito, dalla mia figlia che si era spostato, che lì era in Zifeni e si era spostato, invece dice che è a Predagneda. Non so quindi. Oh, yeah. Bene. Ok. Oggi dove sei andato? È uscito sì in bicicletta oggi? No, stavo facendo altre cose. Tira e molla una cosa e l'altra. E mi sei passata a Uragusci, mi sei passata. E noi siamo andati alle poste. Dopo sono che abbiamo pranzato. Dopo mi sono comprato in campagna, devo cambiare l'olio a motocoltivatore, ho controllato le zappette, e ho controllato il filtro, già pronto per la prossima trattato. Così che alle 4 me ne sono salito, perché abbiamo pranzato anche presto oggi, appena che ho pranzato mi sono sceso. Fatto bene, almeno si è passato un paio d'ore diversamente. È passato e io qua sino alle 4 c'avevo mio nipote e mia figlia e poi non è venuta la cosa, ma allora mi tocca andare in banca domani a Manzano a ritirare lo logoso da Edi che mi rani dice che è scaduto e non si può fare nulla, allora devo andare in banca domani mattina. Ma questa veglia? No, quello degli punti, banco Banca Intesa San Paolo. Ah, ok, deve avere poco, sempre poca niente, dai. Devo entrare solo dove c'è la signorina e fammi già un barongoso, che sa che è questa specie di chiavetta. Eia, si fa in fretta, dai, per cui fa in fretta anche per quella questione. Infatti. Ma sino a ieri funzionava, oggi invece si è chiusa, e non apriva, quindi mi hanno detto di cambiarla. Mi hanno telefonato, mi hanno detto sì, si è chiusa da oggi, andate, devo andare da loro, domani mattina me la cambiano. Ma hai telefonato tu? Sì, ho telefonato e mi hanno detto di scendere in agenzia giù a Ripunti e farmela cambiare. Allora, la fanno stretta. Bene, Mesa. Allora ero va vedendo con Luca, ero va vedendo al telefono. È bello. Non butta la, non l'attacca mandato al telefono. Non lo so, ce l'avevo scarico, dopo pranzo, me lo so preso il telefono, però non ci ho ballato sono risalito, controllo il telefono della scarico completamente, ed è ancora caricando, dopo lo guardo. Allora, cosa ha detto? Mi ha mandato qualcosa? Penso di sì, certo, me l'ha mandato un po' come de cosa. E tutte queste voci registrate. Chi vuole aderire a WhatsApp? Ha detto io non ho aderire a nulla io. Mannaggia da poche pelli in chivi. E Luca mi ha detto lascia perdere, è meglio così. Allora aspetta che ci vado là. E vedo un po' cosa ha mandato, un attimo tu. Sono qua. Betto. Siamo qua. Già l'ho visto che mi ha mandato. Stavo parlando con lui al telefono. Cosa ti ha detto? Se vuoi aderire, aderisci nel gruppo. Allora. Ma da voi pazzicci che a te. Vabbè. Anzi, va a ammazzare un detto cosa vuoi fare. Vedi che sta sempre a cucciare dietro. Ma non entra per chi. Ma non parla parecchio, mi sembra. Io lo so da dove ci ascolta, dal computer. Dice che pure ieri ci stava, pure in Natale Mani si era cucciando. Capito? È sempre a cucciare di buco. A reci di buco. Vabbè. Però uno perché si deve ritirare così tutto a un tratto, prima diceva cosa a noi, che noi non entravamo, cattava invece se ci ha cacciato due. E cosa vedi ti dica? Ormai, vabbè, ognuno fa quello che vuole, noi siamo sempre i nobili, quindi il più non si può fare. Si muove dai nomi. Io ripeto, quando sono a casa l'accendo una e l'altra. Se entrano ci chiacchiero, se non entrano, che se ne frega. Si ammazza ugualmente, viene. Sta tranquillo, anche se non c'entra nessuno. Perché sono né drombo e non ne magno. Sì, subito. Sono qui stato. Cazzo sono qui stato? Una ventina d'anni senza toccarmi. Così che per immaginare. E quindi immagino di comparato tutto quanto. Ma mi devo disperare. Lo saranno. Sì che vince vita c'è sempre stata. E allora, non è quello che. Finché ce n'è. Se entra qualcuno, che se no se lo vengono in due, un ragionamento, in due, tre. Noi che siamo disperati, no? Possiamo quello di campagna, se vuol dire che non la sento già. È un bel di voce, varo, ma no, non lo tocca nemmeno, perché se mi attacco l'apparecchio non faccio niente, per cui quando scendo in campagna sempre per fare qualche cosa, se mi attacca l'apparecchio non faccio niente, sicché preferisco fare qualcosa, non attaccarmi l'apparecchio. Può capitare qualche sera così, ma qualche sera però è, qualche sera. Ma più che no, che sì, capito? Se mi fa. Date il riposente, prima era il cadere di tanta lì a parecchia assiso, tutta la linea. Ma va, è un bel tempo che no. Oh, qualche volta magari ci ho comparato, l'ho già accesa, anch'io. Ma no, per la nessuno, 10 minuti e l'ha già chiudato. Fatto bene. Almeno così, se dovevi fare qualcosa, te l'hai fatta. Ma, allora, avevo piazzato anche l'antenna, la 50, avevo piazzato anche la vicina alla mantova. Non l'ho mai usata, mai. Ah, sì, mi sembra che me l'avessi sentito, no? Sì, ha voglia. Anche se di basso la si sentiva. Vedo un po'. Perché sono in un fosso, io c'ho la montagna, capito? Magari la mantova rimane più alta, mentre invece l'altra rimane all'altezza appena appena della molla della mantova, capito? Così che rimane più bassa in mezzo ai rami e arriva basso a Sassari, capito? Infatti, ed è così, vabbè, l'unica cosa che si può fare è... Piano piano, se entra qualcuno entra, se no pazienza. Infatti, non ci sono problemi, vai. Tanto ormai già ci siamo svagati, già l'abbiamo trattato un po'. Cazzo, io sono come c'è un filo, forse mi sarei uno o due che dai via, ma stessi, che ancora vale tutto. E così che passati 50 anni, se puoi immaginare, già abbiamo già lamentato, ma non viene più voglia attorno, non ce n'è più voglia, però 10 minuti ogni tanto già entro là. Infatti, 10 minuti, una mezz'oretta, tre quarti d'ora, che voglia, quindi la voglia se ce n'è. Infatti, così che... Poi durante il giorno un biglietto magari lo sta lavorando e sono sempre impegnati, così che magari la sera qualcuno già si azzarda a entrare, dai. E per cui va bene così, ognuno fa quello che vuole. Per cui quando vuole entrare, anzi se chiamano io rispondo io, se ce l'ho acceso rispondo. Se no pazienza, è un bel di forte, secondo chi è magari non rispondo io, capito? Magari ascolto però non rispondo, capito? Vabbè, no, anche io molte volte secondo chi è coso, se stanno provando e cosa non mi metto neanche in mezzo. Anche sul canale 10 hanno disaltato, non c'è più nessuno. Prima se ne sono venuto a 23, dopo sono ritornati su 10 e sono stati insieme un paio di settimane, adesso sono scappati anche dal 10, mentre invece noi siamo sempre su 23, che ci tocca a noi. A me sinceramente l'idea non è mai di azzurro, per cui sto bene qua. Se ne entrano nella chiacchiera, se no non mi interessa gli altri canali, capito? Tanto a spazzolare una spazzolatina la faccio ogni tanto, non di più di tanto, perché anch'io ormai ho perso le staffe. Però su 23 è sempre acceso, dai. Una chiacchieratina c'è sempre. Chi vuole entrare entra, chiacchieriamo e poi arrivederci. Ehi, bene meva. Quale sei usato adesso? Sì, cosa sto usando? Il President. Va bene quell'apparecchio, va benissimo. Scherza, è meglio di chi due già, E dobbiamo adottare tanto un biglia, ma questo faccia un tasto e copre un po'. Ma è facile. Ho i 7.900 sto usando io. RC 7.900. Anche questo, per avere un coso che sembra un apparecchio da base, cazzo, da quanto è manno, cazzo. Poi un apparecchio veramente manno, sembra un apparecchio di quelli da base. il coso è grande. Più grande del cobra. Come sì, è più grande del cobra. Sì, anche il cobra è maduro, è lungo. Le alette di raffreddamento a metà dell'apparecchio. Ah, che è poco bisogno, ragazzi. Quello è completo di tutto. Capisci? Sai, l'avevo preso la Negrini a Torino. Ah, se me l'ha fatto pagare il caro, Era in coso su CQ elettronica. C'era il Cobra e l'S9. In offerta erano. Aspetta. E ho preso prima, avevo preso l'S9. Da loro sempre. 380 euro. Dopo 15 giorni c'era ancora. Ho telefonato. Ma tu sì che ce l'abbiamo. Già me l'hanno spedito, ma questo l'ho pagato, come l'ho pagato 500 euro allora, cazzo, allora costava veramente. Ho pagato 500 euro. Tu immagina. Ma la giusta, ce lo fate ne bagaga la roba buona. Ma se la fanno pagare. Da sono apparecchi che non finiscono mai, capito? Non finiscono mai. Mentre l'S9, l'S9 mi ha dispettato appena che è arrivato, c'erano l'ultimo numero del frequentimetro che mi ballava e non riuscivo a fermarlo. L'ho telefonato, cioè me lo mandi su, io l'ho spedito, ha funzionato bene per 15 o 20 giorni, ma poi l'ha rifatto di nuovo e a mano adesso ci sono tre numeri, si stanno dimezzando, anzi sono dimezzati i numeri. E allora vuol dire che il vero difetto del coso dei numeri, che non è buono. Frequentimetro, capito. Ma l'avevo ritelefonato e mi ha detto, dice, io riferisca, dice, lo rimettiamo nuovo. Però non so quanti volevano, allora non gli ho spedito, capito? Perché tanto di uscire l'apparecchio esce perfettamente, no. Solo che vedi solo questi tre numeri dimezzati, capito? Per il resto va tutto bene, ragazzi, un bambone se no anche, capito? Ed è nuovo anche quello. Ma il numero del canale già esce, sì. Sì, no, è uscire esce. Ma pare che non c'è niente, capito? È solo il frequentimetro che è difettoso, capito? Cioè il frequentimetro è difettoso, ma deve essere che sia adatto così. Perché a spegnersi, a dimezzarsi i numeri, capito? Per esempio il 2 è dimezzato il numero, capito? Poi c'è il 2, il 0 è dimezzato, e anche tre numeri ci sono dimezzati, capito? Vuol dire che ne hanno messo un altro del coso, il circuito era peggio di quello che c'era prima. Paghi suoi del coso e te l'hanno lasciato così, e vuol dire che è ancora più, no, lo dovevano mettere nuovo e boh. Ma non ho riparato, ho detto non conviene la spesa del genere, mi sembra che era 70-80 euro più il trasporto, fatti il conto, ragazzi, no, facciamo stare così, non mi interessa. Ma parecchio già funziona bene, per cui sarebbe magari che tu non vedi i numeri perfetti, capito? Per il resto va bene l'apparecchio, e poi è nuovo l'apparecchio, e ho già funzionato, e si è preso la cattola. Vabbè, tanto non è che lo usi spesso, quindi ogni tanto per farlo funzionare nel coso va benissimo. fede, perché loro ne avevano un altro, hanno preso da lì e gli sono buttati di fittuso. Quindi, allora è meglio lasciarlo così. Sì, no, non lo tocco, che lo tocca? Più successo, la scatola. No, no, non lo tocco nemmeno quello, non lo accendo nemmeno quello, ce la fa. Ci arriva parecchio a chiacchierare, capito? No, sempre dentro la scatola, non lo tocco quello. Ma si veglia. Ci arriva parecchio così che. Magari per cazzo lasciarlo così, però tanto che ce ne ho altri, attacchini, no, non saranno un altro più grande, per cui lascio questi due e va bene, dai. Io mi c'ho questo qua, e l'emologato ce l'ho sotto, ce l'ho, quindi se voglio accendo uno e stacco l'altro. E così faccio io. E così faccio io, uno o l'altro. Per cui non ho fatto per quei 10 minuti che siamo la sera, già a fare appena, già dentro la cazzo, tra voi, che a voi si rubiglia e se lo rabbia, sai dove più vicino, tanti no che non è nessuno che ha passato l'apparecchio, per cui da voi si rampa. Quando ho visto questo lì, stava la lampa tutto, che se la putti. No! Oh! Si merita per la vista. Vabbè. Ok. Capito. Gian Maris. Quando io sarà. Pazienza. Andiamo già tanto, ma 10 minuti che lo drattemo. Se io gozo di drattaghiddo, drattoghiddo, o l'emologando. Se no, solo che quello lì piglia troppo troppo QRM. Ah, ma c'è molto chiccio io, così, chiccio mi piglia un bel di manco. Già è vero, piglia un bel di QRM. Cioè, ma anche quell'altro omologazio che avevo preso, io non avevo preso due omologazio, ho preso 488 e poi ho preso anche il presidente Barri, ho preso e anche il coso, il 2000 avevo preso, c'era il 2000, tre ne avevo preso, non due, tre, però l'unico che ha poco QRM è coso, è il 2000, quello ne ha poco QRM, però il coso, quello preciso al tuo e il presidente Barri hanno un sacco di QRM, ma lo sai. Già c'è l'alternatore, però non è che lo ha già tanto, capito? Vabbè, tanto le cose di quelle, le 40 gatta, quello lì l'emologato si prende troppo cosa prende, troppo QRM, per quello tengo un po', mi adopero questo qua, questo c'è il tastino e lo chiudi il QRM. No, questo c'è l'attenuatore, però l'attenua veramente, il QRM ne ha molto poco. Ma quello là, mi prende molto. Infatti. Per così è. Tanto che tu è meglio di quello lì anche. Quindi già va benissimo. Eccoci tu. Infatti. Per così è. Già andami bene. Vado bene, tranquilli. Ma chi c'è ancora sarà in campagna ancora? Dentro la serra in affiende, gatta, o tappitende, gatta? No, è in garage che devo accontenere la serranda. Ah, ma la serranda è rifasciata. Ha detto che no, più di tanto non saliva. E dovevo venire questo qua a aggiustargliela stasera. Ha dato l'appuntamento a variare alle 6:30. Ah, ecco, cazzo, se non sa salare, non sarà facendo la molla, di solito ho fatto le molle lì. Sicuramente, o si è mollata la molla, o è a Giamba, boh. Quindi non lo so cosa gli doveva fare. bisogna andare giù, che colui se ne intende e sa subito cosa è, cosa lo è. Nel solito si faccia la molla o i cappa, capito? I cappa la molla e allora lo tratta completamente, capito? E la tassina è un bel pesante, Infatti. Adesso andiamo a mettere a posto, non lo so, mi ha detto che già ci sentiamo più tardi, mi ha detto. Vabbè, allora già lo sentiamo, datti a farla sentire stasera. Bene, bene, va. Capo, andare, andare. Ma c'è Lugani che è drummido. Ma la disaccia già c'hai? No, perché? Ah, si sente? Mi sembrava che avessi tipo la televisione. No, il PMR acceso c'ho. Ah, ecco. Ho capito. E c'è il coso, c'è. Già. Anch'io ce l'ho acceso, l'ho abbassato io. Anch'io ce l'ho uno, ce l'ho. Però sento solo a lui, all'altro non lo sento. L'altro è Antonello. Ah, ecco. E io sto col gommino, per quello magari no, che Antonello non lo sente, poi sono dietro, capito? Sì, vabbè. Aveva un po' carico di fresco. Antonella era andando a base del gozzo di città mercato, cata e vera prescritto. Ah ma c'è che ci dopo che da fuori, è un bugione per freddo. Ti dico che in campagna si stava bene, io ci ho sceso preso, perché abbiamo mangiato a luna oggi. Così che a luna e mezzo sono sceso e si stava bene. C'era quella rietta, però non era freddo, magari forse perché era in movimento, freddo non ne avevo. Anzi, stavo sudando anche. E ci stava andando bene, però ho visto che qua, quando sono arrivato, mi sono rinfrescato e mi sono buttato così sopra il letto. Me la biglia di un freddo, veramente azzurra, Tu prendi mia figlia da all'anchi, allora mi sono cazzato, ma gli butto la giacca di la tuta. E la base sta di me. Cazzo, se sono di così, si sa correnti, quasi male. Ah, infatti, ma gli butto il giubbotto. Delle cose di... E c'era freschetto. Infatti ad abboni, io devo uscire, mi do il rapponino giù botto, mi do il rapponino. Tu adesso un altro, vai. Che sta venendo mia figlia. Già rientro subito. Tanto sono va subito. Se non mi chiama mia moglie. Già sono qua comunque. Ok, già ti chiamo quando è. Sore, attento, c'è il macchisio. Allora, messi, Sore. Tomari, macchisio. Non è entrato tutto. Non è entrato. Ho chiamato due volte, ho chiamato anche a te. Tu sei stato, eri impegnato. Sono andato a prendere mia moglie da mia figlia. Sono rientrato adesso. Quindi non si è fatto sentire, sai a quanto è ancora la serranda? Può darsi pure che non si sia riuscito a aggiustarla. Che abbiamo fatto il doppio lavoro, non lo so. Beh, aspettiamo, vediamo un po' se entrano oppure no. Attento, signor Macchisio, forse ancora... Ma non so se ce l'ha la luce a quest'ora, non credo. Io avrò un faretto, tutto quanto. Può darci magari ha trovato la persona chiacchierona e non la finisce più. Non lo gioco, no. Perché certe volte se uno mi trova, già la finito male là. Gatti, ma che sono lunghi, gatti, ma un bel mi finisco. Non lo gioco, Giomari. Non me ne sono mai impegnato per le serrande io. Ma no, hai capito, cosa volevo dire io. che forse magari ha trovato qualcuno chiacchierando, le chiacchiere sono un po' lunghe, certe chiacchiere, e allora magari passa l'ora. Proprio ho capito, sì. Ma sembra che c'è un documento che è più lungo, vedo. Succede anche queste così. Vuol dire che è impegnato, dai. Se no si sarebbe stato a casa, senz'altro avrebbe acceso. Ma accenderà. Prima delle 8 già si fa sentire, senz'altro. E poi magari avrà finito più tardi pure, così che ha perso tempo, là. Infatti, sarà così, sarà. Boh, quasi pure. Che entri, ne si fa sentire. Ma se non si contiene ancora la serranda. No, è già notte, detto. Non credo, se non c'è luce, questa lavora male uno. Oh. Anche luce della macchina, già si può lavorare. Se non si dovesse essere la luce, capito? Non lo so. È venuta mia figlia, se n'è andata adesso, se n'è andata. E per cui eccoci qua. Ho chiamato varie volte, ma non mi ha risposto nessuno, allora ogni tanto scappavo, capito? Fatto bene. E io sono andato a prendere mia moglie e sono rientrato. Io ho chiamato poco fa, ma non mi ripose, non me ne sono andato. Ma me lo immaginate, almeno, non ha risposto, senz'altro è andato a prendere la moglie. E qua ci stavo ascoltando. E così via, qualcuno entrerà. E se gli 8:20, infatti strano, ragazzi, ancora sarà ancora in garage, per cui non ha finito. E così via. Vabbè, vuol dire che per stasera ci è perdonato. Eia. Strano che oggi Graziano non ha acceso, ragazzi. Dice che c'è Deva, nemmeno lui ha acceso. Nel telefono, ascoltate lei, ce n'era una registrazione di Graziano. Non si comprende nulla, è sul telefono, è sta registrazione. Cosa ha compreso mai, Jesus? Boh. Oh, yeah. E questo è il telefono nuovo, cazzo, dovrebbe funzionare bene, ma è lui che non le capisce. Ma io metto, la apro, la conversazione la apro e sento tutto. Come ti mai vedono la cosa? Evidentemente, pari un poco malandati e di un burro. andiamo. E allora so. Io sono mezzo sordo, all'orecchio sinistro, e l'altro sta diminuendo anche, capito? Però a sinistro, perché ho avuto l'otite, io chiaro che sento molto di meno, ma molto, sento più bene a destra, però anche a destra, quando le orecchie non sentono tutte e due contemporaneamente, una ne soffre, io lo sai già. Sì, infatti, a mano c'è l'altro che comincia a diminuire. Vabbè, ma già ci sono gli apparecchietti, piccolini, ma così vedi. Grazie. 7-8 mila euro. Ma ve la fai? Ci sono quelli anche di farmacia, che sono minoretti, non mate, si costano 157 euro. Ma una volta strada, quando dopo che mi hanno fatto guarire, guarito l'orecchio sinistro, sono andato a quel center, mi hanno fatto fare tutte le prove e sentivo sempre di meno a sinistra. Beh, lo sa che me le hanno date, però me le hanno date dalla mutua. Ma sono troppo grandi, insomma, ma si pare che boh, siamo lì in giro, questa cosa, cazzo, che fare due robot, pare, così che ce li ho ancora, però no, non ne metto, non ne metto. Quei piccolini costano troppo, così che non ha preso per quello, capito? E non ci sono più andato, anzi, mi hanno chiamato 5-6 volte a controllo, ma non ci sono mai andato, trovavo sempre la scusa che non potevo. Anche all'inizio di quest'anno mi hanno chiamato, per immaginare. No. Adesso mi stavo proprio instigando a andarci di nuovo, oppure a comprarmi quelle piccoline. Però non lo so, indeciso solo so. Guarda quelli di farmacia, quelli che c'hanno in farmacia, stanno facendo la pubblicità. E chiedi a vedere. Ah, te li danno anche a provare, te li danno. No, se sono grossi non mi metto. Non mi piace a vedere questo. Lo so che è una cosa molto utile. Specialmente in certi discorsi, quando non lo senti bene. Certe volte nemmeno il telefono sento io. Se adesso sono in questa cameretta, io il telefono ce l'ho caricato in cucina. Se suona non lo sento, lo dice sempre mia moglie, mica sta suonando quella del telefono, per dirti no. Però se è vicino lo sento, ma se lontano no. E in ragionamento secondo chiedo non riesco a sentirlo bene, capito? Capito. E vabbè, ma quelli che ho visto io che stavo facendo la pubblicità, c'era una signora in farmacia, c'era una signora che li ha visti, ma sono piccolini. Sono i nuovi che stanno uscendo adesso, mi. Lo so che mi sembra che l'ho visto qualcuno in pubblicità in farmacia. L'unico sono quei piccolini che fanno vedere la pubblicità, quelli va bene, sono piccolini, sembrano le cuffie del telefonino, capito? Quelli vanno, però costano troppo, adesso vediamo, se magari si aggravano di più allora magari sono costretto ad andarci, anzi c'ho l'appuntamento all'ottorino per farmi il controllo che ogni anno io faccio i controlli alle orecchie, capito? E ce l'ho a gennaio l'appuntamento. Vediamo un po' quando, tanto me le faccio pulire bene e vediamo un po'. In caso mai dopo ci vado e vediamo un po'. Vabbè. Io te lo stavo dicendo perché quelle che ho visto che stanno vendendo la farmacia sono piccolini, ma così verini. Allora abbigliano che sta signora gli abbigliano, ve la fate bruva, adesso era contenta. Ma non costano molto, 157 euro costavano. E va a vedere, perché a me a portare questa cosa dietro l'orecchio, questa cosa, no, questi che ho sono grandetti, e per cui non mi vanno, ecco, non me ne metto anche per quello, ancora sono buoni, mi l'ho messo nemmeno 10 giorni, ne ho fatto le prove, sono stato quasi un mese facendo queste prove, 2 ore al giorno, mettevo 2 ore al mattino, 2 ore alla pranzo, 2 ore a sera, e dopo sembrava che sentivo bene, però in casa, fuori non me l'ho mai messo perché non avevo la vergogna di avere questa cosa dietro l'orecchio, capito? Ho capito, questi invece si mettono dentro l'orecchio, si mettono, e non li vedi neanche, e c'è la pappa di ferro per tirarli fuori e basta, ma non si vedono. Non lo so, non li ho visti io quello lì, non li ho visti, e adesso vediamo un po', quando mi fanno tutte le pulizie bene, le controllano un po', vediamo se vanno bene, se mi piace me le prendo, perché l'udito è molto importante, capito? perfettamente in discorso, secondo parlando magari certe volte sente, certe volte non la sente, capito? Ed è un rebus, per cui se ci sono è meglio ancora, ecco, tutto lì. Proprio per quelli di farmacia, ci facci gli erocchini, ma te li fanno vedere loro, da bambini, quanto sono grandi, e boh. Ci passerò, faccio quella che conosco io, per cui che viene anche a casa e gliele chiedo, vedo un po' cosa mi dice e vediamo un po' com'è la situazione, perché è brutto quando non senti quasi niente. Certe volte mica sta suonando il telefono, ma me lo dice lì, io non lo sento, capito? È anche quello, perché io sento solo sulla destra, a sinistra sento poco e niente, se no che me lo metto vicino all'orecchio, capito? Lo so, perché qua a casa io c'avevo la mia suocera che era così con l'apparecchietto, ma non vedevo se si poteva affrescare questo apparecchietto. Già sono utile, lo so che sono utile, ma sai cos'è? Non tutti riescono a tenerlo, capito? Ecco il fatto. Però quando è proprio necessità si è costretto e così via, capito? È da vedere, va bene, adesso quando viene qua quella lì, che ogni tanto li telefoniamo, le medicine ce le portano loro, quando, lì questa signora, capito? Quando non ce le hanno, no. Prima andarci, la faccia qua e ce le porta, non c'è che non costa niente, la faccio entrare e glielo chiedo a vedere un po'. Chiediglielo, non si vedrà che, ma da contento di un mattese da contento, invece di andare al centro, da contenti tu. Oppure ci vado io, capito? Vedo un po', attento signor Bacchisio, gliela dire che ce l'ho ben, tanto chissà ancora che in garage mi ha portato la serranda. Sicuramente sì, deve essere per una puzza che dice che non attava, e allora deve essere per una puzza. Ho soldato a pirare il pizzo, carità, vabbè. Aspetto fino a meno 5, se non viene niente la chiudo e lo sentiremo domani. Capito mi hai tu? Esatto, capito sì, Giomari. Già, ho compreso. Eia, ma... Allora, domani piove, comunque. Ha messo più, già è. Per cui dovrebbe piovere domani, insomma. Domani non si esce. Di pomeriggio l'ha messa, però. L'ha messa di pomeriggio, l'ha messa. Vabbè, se piove di pomeriggio, pazienza, già non la giudici io. Anzi, mi, c'è la signora verso di 7-7.000. No, domani sera ce devo portare a mio nipote a campo a San Giovanni. Vuol dire che mi pongo il BMR e mi pongo in macchina. C'è solo in casa, già questo è pazienza. Se chiami a te rispondo. Vabbè. Tanto la sera non è che vado nessun posto, se lo vado male su un posto io, capito? Specialmente prima delle 6 magari non ci sono, ma dopo le 6 già ci sono. Oppure se sono a casa, così che è sempre acceso, capito? Io accendo uno e l'altro quando sono a casa. Mi porto il portatilino, mi porto con l'antennino che si mette fuori. Già ci arrivo da lì. Se tutto va bene, se no pazienza. L'altra volta abbiamo parlato, no, da San Giovanni mi sembra, così che è arrivabile. No, ci arriverò. Certo, va benissimo. Vanno bene quelle apparecchiette, dai. E poi non è che siamo molto lontani, per cui se non ci sono ostacoli già passa, capito? Questi che ho anche un altro portatile che sono da parecchio, non l'accendo, mi sembra che domani mattina lo carico e vediamo un po' quel portatilino. Certo. Già sono due di chi non l'accendo, dice. Ma la batteria non si sfascerà, no? No, io ogni tanto lo provo a vedere accende, ed è sempre il garrigo. Anche questo, dovrebbe essere così. E domani mattina lo tolgo e lo carico, vediamo un po'. E farlo funzionare anche a lui. Ok, bene. Poi ci puoi mettere l'arte amico in macchina con la base magnetica. Sì, da il volantino piccolino che avevo preso da internet. Quello lì c'ho. Cioè c'è proprio quello lì a vedere, se andare se no fa niente. A me me ne ha dato uno Lucca. Le basi, la base detto, così con la calamita, e l'antenino mi sembra sia lungo 70-80 centimetri, mi sembra che una cosa del genere. E l'ho provato da Ottava, e arrivava anche l'Antonello, e a Sorte pure sono arrivato. Per dire da Ottava, così che dovrebbe andare bene, è migliore dell'antenino suo, dell'apparecchietto, capito? Ti metti la base magnetica, te la fai tutto, un attimo costa poco, te la fai arrivare un attimo piccolino, e quando è così conviene a mettere la base e fai più bene, capito? Ma già c'ho quello piccolino, già ce l'ho, che si attacca fuori con la base magnetica piccolina, a voglia. Ah, non va via da io, sono a San Giovanni, e quello lì c'ho. Così che arriva qua, arrivano, salvo non ci sia un ostacolo, allora vabbè, ma se va arrivano, sembra così, ma arrivano to. E poi quello mio sono quattro fatte, mi sembra, o no? Sì, io sono antennini, insomma, se stai camminando non funziona, sai bene, non funziona. Non è come un antennino più grande, non funziona, ma se sei fermo già funziona. Vedo un po'. Ok, va bene, dai, a domani. Mamma mi andando a mangiare, che aggiungiamo. Per cui approfitto, ma chi se non è entrato, si rimane, saluta nel centro, salutato. E per cui ci sentiamo domani, grazie la cacchia latina, saluto di casa e buon proseguimento e buona cena. A domani, ok? Ok Gianmarco, ci sentiamo domani. No. Bye bye, chiudo.